Chissà dov'ero quel 25 aprile di Mario Rigoni Stern. Un giorno incontrai per la montagna un tale che aveva inciso sul cinturino del cappello questa frase: «Le andà così». Gli chiesi: «Com'è andata?» E lui, guardando lontano e stringendosi nelle spalle, rispose: «Ma così le andà». Il 25 aprile 1945. Chissà dov'ero in quel giorno. Certo in Austria, nella Stiria, nei dintorni di Graz, sulla strada verso casa. Non avevo nessun calendario, non sapevo le date. So solamente che dopo tanta neve aspettavamo la primavera e l'arrivo dell'Armata Rossa, che dicevano si era affacciata sui Carpazi. Con pochi altri, dalla miniera a cielo aperto dell'Eisenberg, ci avevano condotto in un lager a Eisenerz e non so come mi ritrovai unico italiano in una baracca di mongoli. Erano silenziosi, tetri, e nelle ore prescritte dalla loro religione si prostravano verso la Mecca per le preghiere. Nel lager si diceva che tra loro, dopo che erano stati fatti prigionieri sul fronte dell'Est, c'erano stati dei casi di cannibalismo. A parte il silenzio e l'impenetrabilità dei loro sentimenti, da loro non ebbi nessun minimo sgarbo, nessun tentativo di furto della mia razione di pane. Era verso la fine di febbraio quando mi misero a lavorare in fonderia in coppia con un turcomanno dell'Asia centrale. Dopo pochi giorni comunicavamo in una lingua inventata comprendente dialetti italiani, tedesco, russo, francese, turcomanno e perfino albanese. Riuscivamo così a raccontarci le nostre sventure, ma lui anche mi raccontava del villaggio di cui era capo, delle sue tre mogli, delle grandi greggi che possedeva, dei cavalli. Tra quelle tettere montagne della Stiria provava grande nostalgia della sua terra lontana, degli spazi aperti, della carne di pecora arrostita. Qualche volta i prigionieri russi mi chiedevano di fare da interprete con lui. Il compagno kazako non capisce niente, mi dicevano. Chissà dove sarà ora. Sei ritornato laggiù, oltre Samarcanda. Era un buon amico. Era forse i primi di aprile quando i nostri custodi ci radunarono in fretta e bruscamente, come al solito, ci rinchiusero nei vagoni bestiame. Dopo una notte in cui si sentiva il brontolio di un bombardamento lontano, partimmo per destinazione ignota. Il viaggio durò poco, con lunghe soste sui binari morti. Prima di sera ci fecero scendere tra le rotaie divelte di una stazione le cui rovine ancora fumavano, e capimmo da certe scritte che eravamo a Graz. Oggi, dopo aver consultato un libro, Bomben auf Graz, acquistato in quella città 3 anni or sono, presumo che fossimo lì giunti la sera del 2 aprile, poco dopo il 51esimo attacco aereo anglo-americano, che fu il più drammatico. Ci misero subito a sgombrare macerie finché venne buio. I nostri nuovi angeli custodi erano delle SS ungheresi, arrivate fino in Stiria sotto l'incalzare dell'Armata Rossa. Furono i peggiori, i più bestiali uomini che mi fu dato di incontrare. Durò così per giorni, a sgomberare macerie di giorno e di notte rinchiusi in un lager alla periferia della città. Avevano avvertito: per chi di notte tentava di uscire dalle baracche c'erano le pallottole delle mitragliatrici, anche se venivano gli aerei a bombardare. In quelle notti, leggo ora su quel libro, vi furono ancora 6 bombardamenti e noi sempre lì, con il pastrano tirato sulla testa, sperando che le bombe andassero su altri bersagli. Fummo molto fortunati. Quando l'allarme capitava di giorno, allora ci cacciavano con urla e bastonate verso le gallerie scavate sotto il castello, nel cuore della città. Era lì sotto che si erano trasferiti per sopravvivere migliaia di cittadini, portandosi le cose più essenziali: qualche materasso, coperte, pentole, patate, acqua, donne, bambini, vecchi. Una silenziosa umanità dolente che aspettava la fine della guerra, nel cuore maledicendo il Führer Adolf Hitler. Un giorno stavo scavando e mi si avvicinò un signore anziano e canuto. Osservava con insistenza il mio cappello d'alpino. La mattina dopo mi ritrovò e mi porse una fetta di pane nero. Mi disse che a Vienna erano arrivati i russi e che lui nel 1917 aveva combattuto sull'altipiano contro gli alpini del mio reggimento. Così gli dissi di dov'ero. Lui mi consigliò di andare via, di scappare, che la guerra stava per finire. Quando questo accadeva, non posso sapere che giorno fosse. Era il 22 aprile. Leggo sempre su questo libro, Bomben auf Graz, che il 27 aprile, tra le 9 e le 10 del mattino, ci fu l'ultimo attacco aereo. E io, questo sì, lo ricordo, non c'ero. I russi erano arrivati a Vienna il 13 aprile e da qui dilagavano per l'Austria. Ma io camminavo verso casa, a Baita, come avevo camminato in Russia e in tanti altri posti d'Europa. Sarebbe stata l'ultima marcia forzata? Andavo lentamente, guardingo, magro, affamato come un cane randagio, ma andavo, anche se sentivo la febbre, ancora un passo dopo l'altro. Ma quel 25 aprile del 1945, dov'ero? Quel tempo cerco di ricostruirlo guardando una carta geografica, calcolando il mio passo. Quanti chilometri potevo fare in quelle condizioni tra quelle montagne? Certamente ero leggero, non dovevo consumare tante energie per portare avanti un corpo così magro. Anche se le calorie a disposizione erano molto poche, potevo fare 30 chilometri al giorno. Tra le macerie di Graz, rischiando di essere ucciso sul posto da una fucilata, potevo mandar giù qualcosa e così, pensando al peggio, mi ero fatto una piccola riserva di pane. Camminando e riposando nel bosco, accompagnavo qualche pezzetto di pane con germogli d'alberi ed erbe commestibili. Sì, fu proprio così quel mio 25 aprile del 1945. Camminavo per i boschi della Stiria per risalire verso le Alpi e rientrare in Italia. Forse era una bella primavera, ma non me ne accorgevo. Forse ero in quella zona chiamata Coralpe. Nella notte tra l'8 e il 9 maggio l'Armata Rossa giungeva a Graz. Io arrivai a casa la sera del 9 maggio. Ricordo che non era ancora scesa la notte. Tutto qui.